Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Siamo qui, caro Oscar. Eccoci. Lo so che lo sa. Oggi lo so anch'io il santo. Lo so anch'io il santo. Non mi freghi. Sento tutte le ascoltatrici che ti mandano. Cos'è. Oggi santi, naturalmente. I santi. Adesso è finito. Iniziamo così. Iniziano le lacrime. Subito. È finito. Allora, sì, San Valentino, va bene, San Valentino, il vostro santo commercialissimo, per ricordatevi i regalini, non sbagliate i nomi oggi, non chiamatela con il nome dell'altra e così via, e viceversa. Sei dissacrante. No, sono dissacrante, consigli per l'uso, perché altrimenti poi finisce male e poi si finisce per andare subito dopo la mezzanotte al santo dei single, che è San Faustino. Ma comunque, insomma, voi se dovete sapere, ma tutti immagino che lo sappiate, visto che questo santo tanto vi appassiona, che in realtà è un, diciamo, un modo con cui appropriarsi di una tradizione precedente, pagana, perché era la festa di Fauno, erano i Lupercalia, quindi erano delle feste di fecondità, di accoppiamenti un po', ecco, non troppo romantici, a dire la verità, e niente, poi invece questo santo diventa il modo per la tradizione cristiana di appropriarsi senza però la licenziosità, mi raccomando, Alessandro, oggi, che era propria della precedente tradizione. Cirillo e Metodio invece sono i santi apostoli degli slavi e sono i patroni dell'Europa, insieme a San Benedetto, per volontà di Giovanni Paolo II, quindi santi di un impatto leggermente più importante. Pensa che nel 1916, oggi, Milano veniva bombardata dagli aerei austriaci. Se lo sono dimenticati tutti, ma anche nella prima guerra mondiale gli austriaci sono arrivati fino a qua con i loro aeroplanini. Nell'89 Khomeini condannava a morte Salman Rushdie, poi per fortuna non è mai avvenuto, a dire la verità. E nel 1945, oggi, tragedia da ricordare, nella storia noi abbiamo alle spalle cose di questo genere, i britannici e gli americani scaricarono su Dresda 3.950 tonnellate di bombe e morirono, non sappiamo ancora quante persone, da un minimo di 35.000 a un multiplo di questo numero, perché c'erano così tanti sfollati che nessuno è in grado di dire quanti ne morirono. Io spero che molti di voi abbiate letto di Kurt Vonnegut, che è un grande scrittore americano, che era prigioniero di guerra dei tedeschi a Dresda, il suo libro Mattatoio 5, che dà una idea di che cosa quel giorno avvenne. Voi direte la guerra, i nazisti, sì, però insomma erano innocenti quelle persone. La nostra storia, le nostre spalle, è una storia di tragedie. In questo stesso giorno, nel 1349, per esempio, a Strasburgo decisero che, siccome era in arrivo la peste, c'erano 2000 ebrei di troppo e li trucidarono a fil di spada. Questa è la storia, ragazzi. È la storia. Va bene, non parliamo di San Valentino oggi. Ne abbiamo già parlato abbastanza, mi pare. Diamo il numero di telefono 800240024, parliamo di politica. Un secondo, credevo stessi dando il tuo. Non parliamo di San Valentino, scrivetemi direttamente. No, no, non no, è, no, per fortuna no. Parleremo di politica, anche se io, Oscar, devo dire, sono rimasto perplesso, ho fatto questo j'accuse, ovviamente nel vento, inutile, per le tante cose che dico, spesso inutili, soprattutto relative alla nostra categoria. Cioè, secondo me non è neanche un errore del PD discutere, anzi discutano, ben venga che discutano, forse è un errore però che la nostra categoria dedichi 10 pagine, le prime 10 pagine dei giornali, a ogni sospiro, a ogni modifica, a ogni scissione ventilata, paventata del PD. Perché poi più si fa così, più loro lo sanno e agiscono in maniera tale da assecondare, questa è la mia impressione, Però per carità, chi siamo noi per sostituirci ai direttori dei grandi ma giornali? No, no, però giustamente, voglio dire, nel giorno in cui tra l'altro si parla dell'economia italiana che arranca, la Commissione europea che dice che siamo fanalino di coda, ecco, di per crescita, per magari una, insomma, analizzare queste pochissimi cose. Pochissimi commenti, ma era troppo chiedere alla direzione PD un'analisi del perché restiamo al palo l'Unione europea? Chi ha governato, gli alieni o loro? Ma... anche lì, cioè, forse lì all'interno del partito devono discutere di congresso o non congresso, cioè, congresso non congresso. L'impressione è di una discussione tutta interna, ma è inutile che raccontiamo cose diverse, appunto. Fatta intrisa di ambizioni diverse da leadership, conti che non tornano perché i renziani hanno una stragrande maggioranza, quindi faranno quello che è giusto, e per il resto un mucchio di problemi irrisolti. Però a me ha colpito, a dirti la verità, il modo in cui ha detto a Padoan: tu questo devi farlo, questo non devi farlo. Del Rio mi ha colpito, Del Rio che dice: Padoan, io ho delle difficoltà a mandare in borsa Ferrovie dello Stato, non a privatizzare, perché non c'è, come sempre, non c'è il controllo di nulla, ma a privatizzare Ferrovie dello Stato, così com'è, cioè dentro con la rete, i trasporti pubblici e l'alta velocità. Benissimo, infatti bisogna separarle, queste attività, però il progetto è di Renzi, mica di Gentiloni, mica se l'è inventato Gentiloni in due settimane, eh. Però per dirti, sappiamo che la politica è così, e adesso per mesi dovremmo seguire questo. Però non so, se avete capito, ascoltatori, cosa succederà? Ci sarà questa scissione, ci sarà il congresso, vedete un Renzi che può tornare più forte di prima, è meno forte di prima, insomma, diteci anche cosa si muove secondo voi nella politica italiana, e nel Partito Democratico, ma anche negli altri partiti, insomma. Entriamo in una fase in cui, se ho capito bene, Renzi ha capito che a giugno non c'è più margine per andare a votare. Forse settembre, però anche lì non si sa. Alla fine forse si convincerà che si arriverà a fine legislatura e ci sarà un nuovo un congresso, un nuovo leader del PD o sempre lui, vedremo. Staremo a vedere. Questo è lo scenario. Però voglio dire, una parola di critica sull'impostazione che ha portato a concentrare sul referendum la sospensione di ogni problema italiano per 8 mesi. Zero ieri, zero. Cioè, è questo che mi colpisce. Però, amen, ti dirò che anch'io, io sono con te. Oggi, per esempio, quando ho visto questa pagina, che è pagina 39 di Repubblica, no? Un report che fa il calcolo, in maniera abbastanza scientifica, delle diverse regioni italiane di quante sono le morti evitabili in sanità. Ecco, siccome la cifra è 100.000, allora uno direbbe, forse interessa, cavolo, no, che notizia. 100.000 italiani. Ma invece no, pagina 39, perché giustamente abbiamo altro da seguire. No, per carità, adesso poi abbiamo scatenato, vedi, Luigi ci scrive: io sto andando da un cliente, poi ne avrò un altro. Questi parlano e parlano e parlano e basta. Vabbè, insomma, fanno anche la politica e discutono, i politici discutono, non è che parlano e parlano e basta. Adesso non volevo creare l'idea che c'è l'Italia che lavora. Del qualunquismo, no? Esatto. Capisci? E tutti gli altri che non fanno niente, questo non è. Però vogliamo partire da qui, anche due chiacchiere sul Partito Democratico, con un sindaco che abbiamo chiamato in realtà per quello che sta succedendo nella sua città e nella sua università nel senso della sua città. È Virginio Merola, sindaco di Bologna, che è Buongiorno. Del Partito Democratico. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti. Lei, da sindaco che ha a che fare con i problemi quotidiani, come osserva quello che succede alla direzione del PD? Perché io qui, Alessandro Milan e Oscar Giannino, abbiamo detto: ma magari sui giornali c'è un po' troppo spazio dedicato a tutti questi dibattiti interni. Che pensa lei? Io come sindaco penso che questo paese, in questo momento, di tutto il bisogno, tranne che di discutere di andare alle elezioni al più presto. Mi auguro che si aspetti la scadenza naturale. Penso che la mia città bisogna che sia approvato il piano per le periferie e il patto per la sicurezza. Ci stiamo lavorando con i ministri, abbiamo buone prospettive. Penso che abbiamo bisogno di parlare di problemi concreti delle persone, vedere un po' perché i giovani sono così lontani dalla politica, in particolare dal nostro partito. Insomma, vedo molte cose da fare, e francamente le date non mi appassionano più di tanto. Sì. Detto questo, sì, come iscritto al PD penso che abbiamo bisogno di una bella discussione che si debba fare, ma io penso che si possa fare mantenendo sempre al primo posto l'interesse del paese e delle città. Sì, sono in attesa di provvedimenti da troppo tempo per permettermi di dire che non è importante quando si vota. E se ci sarà questo congresso, lei ha anche già un candidato? Beh, se dice si va da elezioni naturali, non è renziano, ecco, possiamo dire così. Ma no, ho sostenuto Renzi, io però adesso non vorrei più parlare di persone, perché qui se dicono tutti, premettono tutti, abbandoniamo l'io e parliamo di noi. Dopodiché sempre di persone si parla, io pongo dei temi. Nelle città i ceti popolari ci hanno dato un segnale forte di fiducia, quindi il PD ha un governo, discutiamo di quali provvedimenti sociali, ad esempio sulla casa, mi permetto di dire che è stato un errore togliere il fondo sociale per l'affitto, perché noi oggi abbiamo liste d'attesa per le case popolari. Chi vince per entrare in una casa popolare è come se fosse una lotteria, e chi perde non ha niente. Prima avevamo il fondo sociale per l'affitto, a proposito di ceti medi, rancorosi e impoveriti, che ci permetteva di sostenerli nel pagare l'affitto sul mercato privato. Quindi io vorrei che discutessimo di sinistra su queste cose e cominciassimo un po' a fare una discussione vera, cominciando dal merito. Orlando ha detto una cosa sensata, ha detto: ma scusate, sappiamo che il congresso ci spaccherà, perché non facciamo una bella conferenza programmatica e discutiamo di merito, di temi. Cose concrete. Così. Anche perché, signor sindaco, le faccio una domanda concreta. Lei fa un amministratore, quindi appunto ci ha fatto un esempio che è concreto, cioè quello di chi si deve confrontare, avendo la responsabilità poi anche di che risposte dare alla domanda ricata. Ma è quello che colpisce. Non nego, è fondamentale avere il grande contesto del mondo che cambia, arriva Trump, la Le Pen, eccetera, eccetera. È tutto vero, però. Per esempio, le faccio un esempio concreto. Ieri domenica sul Sole 24 Ore il professor Ricolfi dà un'interpretazione, una lettura dei 30 milioni delle forze di lavoro italiane, quelle lavorano solo 22 milioni e mezzo, e sono tre gruppi di 10 milioni. C'è una prima Italia abbastanza garantita che se la passa non benissimo, va bene, una seconda Italia, altre 10 milioni che già sono gli autonomi e i dipendenti delle piccole imprese, che già è l'Italia del rischio, poi c'è una terza Italia, 10 milioni di persone tra inattivi, disoccupati eccetera, che è fuori, cioè sono le vere vittime di quello che sta succedendo in questi anni. Privi di tutela, nessuna garanzia, reddito bassissimo, campano grazie a papà e ai nonni. Allora, su questi 10 milioni, se uno chiedesse un bilancio, no, di questi anni, perché di soldi se ne è mobilitati tra i bonus, l'80 euro, l'abolizione dell'IMU, prima casa, eccetera, eccetera, e la decontribuzione alle imprese per assunti, tanti, ma non quelli aggiuntivi, tutte le trasformazioni di contratto. Allora, io penso che non sia tanto di sinistra o di destra, è il problema dell'Italia per ripartire quella roba lì. Io ieri su questo, mi scusi, ma grandi riflessioni non ne ho sentite. Ma no, ieri si è parlato di date, si è parlato di fare il congresso subito, si è parlato di chi si candida o meno, però ecco, una piccola speranza ce l'abbiamo, si è detto che si fa un congresso per discutere su quali sono le proposte che ti dice di avanzare al Paese. Detto questo, io penso che noi dobbiamo lavorare per allargare una grande coalizione di centro-sinistra. Condivido molto la proposta di Pisapia di creare un campo progressista ampio. Detto questo, sui contenuti però, su cosa possiamo fare? Di concreto. Facciamo qualche esempio, un altro esempio concreto. Dare 500 euro indipendentemente dal reddito a un giovane solo perché ha compiuto 18 anni ha creato una scia di rancore in tutti gli altri e soprattutto si sono sentiti presi in giro. Allora, io penso che noi dobbiamo non pensare a una logica di accattivarci il consenso, ma dobbiamo guardare bene le contraddizioni che ci sono tra le persone. Ecco. Per esempio, il welfare è molto da rifare da questo punto di vista. È già una cosa ci ha detto, per esempio, del fondo sociale per l'affitto. Sindaco, però, sindaco Mero, la Bologna, noi l'abbiamo chiamata anche perché vorremmo capire la sua posizione su quello che sta succedendo all'Università di Bologna, dove una piccola minoranza, diciamolo, perché ci hanno scritto molti studenti, genitori di studenti, e guardate che la maggior parte degli studenti sono persone per bene e ci mancherebbe. Però c'è una piccola minoranza che tiene in ostaggio l'università, noi l'abbiamo dipinta così. Lei è d'accordo oppure no e cosa fare? Allora, guardi, quello che sta avvenendo è il risultato finale di persone che pensano di fare politica dicendo questo territorio lo controllo io. Allora, questa democrazia non è assolutamente possibile. Quello che sta succedendo finalmente a Bologna, dopo tanti tabù, è che c'è una procura che interviene e sta finalmente facendo la propria parte. Lei pensi che ci sono pendenti centinaia di procedimenti che molto spesso finiscono in prescrizione. Con il nuovo procuratore si sta dando una svolta e questo è molto, molto importante. Mm. Dopodiché l'università, il rettore a malincuore ha dato l'ok all'intervento dell'università perché c'è un'autonomia dell'università, ma di fronte al fatto che insomma queste sono persone che vivono quando vengono represse. Io la dico così perché i tentativi di dialogo sono stati fatti continuamente. A questo punto bisogna prendere atto che non c'è possibilità perché hanno scelto come metodo la violenza, il sopruso e la prevaricazione. Mm. Cioè, quindi non però, c'è altro metodo se non la repressione giudiziaria, ovviamente, e nel caso anche della polizia, cioè vedere la polizia all'università, lei ha fatto che effetto? Sì, cioè, nel senso che è la prima volta dopo tanti anni che la polizia entra all'università, però insomma mi metto nei panni del rettore, qui una biblioteca dove approfittando degli studenti entrano spacciatori, entrano persone che si bucano, cioè si può fare, non si può tollerare, questo è il concetto. Quindi io mi auguro che Bologna sani un po' le sue ferite, perché non è pensabile che ogni volta succede qualcosa e i giornali, in particolare il Resto di Carlino, tirano fuori il 77, cioè stiamo parlando di 40 anni fa. Sì, sì. Qui abbiamo delle persone che pensano di far politica attraverso la violenza. Questo non è accettabile. Non è accettabile. E soprattutto non si può accettare l'idea che questo territorio è mio, perché siamo in una città, in una democrazia urbana. Quindi insomma, sono comportamenti violenti da delinquenti e mi fa piacere che finalmente il grosso degli studenti abbia preso le distanze da questa storia, perché è una storia senza scopo. Sì. È che martedì 18 mi risulta che c'è un nuovo presidio di queste, appunto, vedremo insomma martedì 18 che succederà, perché si preannuncia ancora, come dire, qualche momento caldo. Però, a me sembrano apprezzabili le parole pacate ma però precise, secche, ma secche, no? Precise. Del sindaco. E segnalo chi ci ascolta. Perché, ma sì, insomma, guardi. No, ma è così. Sono giusto, guardi. Mi ha colpito a proposito del 77. Siccome c'è una pagina oggi su Repubblica Nazionale, pagina 15, che rievoca una cosa. Io sono torinese, per me quella mattinata c'ho ancora nel naso l'odore acre di quello che accadde. Perché la morte, certo, di un povero studente che, esatto, era uno studente lavoratore, bruciato vivo in un bar a Via Po a Torino per via di una molotov di un corteo. E io ero lì e c'è morto sotto gli occhi, e bruciato vivo. Allora, siccome non siamo a questo, ed è sbagliato evocare ogni volta questo, in compenso, per chi ha memoria e ci è passato in queste cose, avere il tono pacato, ma fermo, è la maniera migliore, secondo me, per onorare tutto ciò che abbiamo imparato crescendo in un'atmosfera che, grazie al cielo, oggi in Italia non c'è più, e se qualcuno ha le idee confuse bisogna chiarirgliele con tutta la pacatezza del caso. Sì, cioè, è una questione di elementare democrazia. Non si può pensare che con la violenza uno possa fare quello che gli pare, tutto qua. Questo sì. Allora, noi intanto la ringraziamo, sindaco, per essere stato con noi, sindaco di Bologna, Virginio Merola. Grazie, del Partito Democratico, anche perché, Oscar, si sono sentiti anche Guccini, ha detto né con la polizia né con gli studenti. No, sì, no, ecco, non mi toccare Guccini, no, perché guarda, no, che dopo, no, che mi tocchi bombarle mi arrabbio, figurati, di brutto. Figurati, non ho cantato anch'io lunga e dritta con la strada. Va bene, ma anche tante altre. No, anche tante altre, no, perché la Berenata. Dai, centinaia. Però, insomma, Guccini, insomma, questi riflessi un po' retro, sì, non sto né con la polizia, polizia, ecco, né invece, con gli studenti. Ripeto, a noi non fecero fare la mostra all'indomani della morte di Roberto Crescenzi, un bruciato vivo E siccome morì bruciato vivo, bruciando con le carni che ardevano e lui gli occhi sbarrati sotto gli occhi di noi tutti, c'è una vecchia sera del bar a Via Po, l'indomani il problema era che esporre le foto sembrava eccitare la violenza. Capite il mondo al contrario come funzionava all'epoca? Funzionava purtroppo così, perché la violenza dominava. C'è Stefano che ci chiama da Forlì, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo sottolineare un aspetto su questo congresso che è stato lanciato ieri da Renzi. Siccome la prima fase è tutta interna al PD, visto che le regole sono quelle dello statuto, ieri sono state confermate nell'intervento introduttivo di Renzi. Il PD, gli ultimi dati che sono usciti sul tesseramento, mi sembra un mese e mezzo fa, due mesi fa, le aveva dati in Repubblica, ha circa 100.000 iscritti in tutta Italia, con una concentrazione in Toscana di 50.000, in Emilia di 30.000 che sono dimezzati in due anni. Allora mi chiedo il punto interrogativo: che rappresentatività ha una situazione del genere? Pensare che nel 2009 gli iscritti erano 1.600.000. Ma ha detto chiaramente Renzi ieri, ha ricordato il tesseramento Toscana il 28 febbraio, portate, come dire, fino a che non c'è il congresso, i dati non sono attendibili. Adesso tutti porteranno, vedrà quanto crescerà. Comunque Stefano, grazie per la sua precisazione. Dobbiamo andare un attimo in pubblicità, anche perché tra poco avremo Oscar, un'altra visione di quello che sta succedendo anche nel Partito Democratico, ma dall'altra parte, cioè avremo ospite Paolo Romani, senatore, capogruppo al Senato di Forza Italia. Vediamo come Forza Italia vede visto i movimenti. Che tra le tante astrologazioni si parla il nuovo anche, Nazareno. No? Sì, vediamo tra poco. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. 24 mattino, attenti a noi due. Siamo qui alle 8.41, vogliamo sentire Oscar, anche Giorgio da Pisa cosa ha da dirci. Giorgio, buongiorno. Sì, buongiorno, mi sentite? Benissimo. Allora, due cosine veloci. Il sindaco Merola dice i giovani si sono allontanati dalla politica, ma invece è il contrario, la politica si è allontanata dai giovani. Uno. Poi il nostro... Lui in realtà ha detto dobbiamo capire perché i giovani non ci votano più. Quindi... Sì, perché la politica non li considera per niente. Va bene. Ecco. Questa è la sua... Poi un'altra cosina, volevo dire, Renzi, il nostro ducetto, oramai l'hanno bruciato, è bene che vada a lavorare, se trova lavoro. Tutto lì. Va bene, insomma, la sua analisi è spietata. Ecco. Anche perché, a giudicare da ieri, Renzi la pensa all'esatto opposto. Io qua, dice, quando li sfido hanno numeri ridicoli, sono divisi. Li seppelliremo. Orlando come loro candidato unitario non esiste, D'Alema dice una cosa, Emiliano è ridicolizzato, cioè la sua versione è tutt'altra. Beh, sicuramente forte penserà, che mai. Penserà di avere ancora il consenso, non so. Però appunto si è vociferato, si è parlato, si è ipotizzato, qualcuno ha buttato lì l'idea di un nuovo patto del Nazareno, non lo so, comunque vorremmo sondare dalle parti di Forza Italia che ne pensano e come osservano tutto quello che succede. Paolo Romani è capogruppo di Forza Italia al Senato, buongiorno senatore Romani e grazie. Buongiorno, buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori. Liquidiamola subito questa cosa del Nazareno, cos'è, fantapolitica? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Punto. Liquidiamola e Paolo Romani ti ha secondato, liquidiamola. L'ha liquidata così. E allora come osservate quello che avviene all'interno del Partito Democratico? Con attenzione, con disinteresse? No, con moltissima attenzione. Devo dire che il tatticismo esasperato che ha contraddistinto la direzione di ieri allontana forse dalla politica, perché io che ho assistito a tutta la direzione, che qualcosa dovrei vagamente capirne, visto che come dire, in Parlamento si frequentano gli amici del PD e non farete intendetemi. Non ho capito esattamente quello che volesse fare Renzi. Ho l'impressione che volesse fare una provocazione ai suoi interlocutori o ai suoi avversari interni. Fatto ne è che le elezioni mi sembra che si siano allontanate tendenzialmente, non più di tanto, ma sicuramente da giugno. Fatto ne è che si fa un congresso quando so che il rito del congresso nel PD è un rito importante e anche un po' lungo. Non ho capito come facciano ad accelerarlo al punto da consentire poi al Paese di andare a votare a settembre, come sento dire. Quindi mi sembra tutto ancora da costruire. Non penso che l'assemblea del prossimo weekend, perché quello è l'organo che deciderà data e modalità del congresso, sarà molto diversa da quella di oggi. Insomma, un po' di confusione sotto il cielo. Dopodiché anche i numeri fanno riflettere, perché i numeri dei gruppi parlamentari penso che siano profondamente diversi rispetto ai numeri della direzione, e quindi tutta la battaglia interna al partito mi sembra che sia una battaglia tutta ancora da fare. Beh, sappiamo, d'altronde è un Parlamento, come dire, che fa parte di una legislatura che era nata non sotto il renzismo, ecco, diciamo, esatto, in questo sono i numeri sbilanciati. Esattamente. E in definitiva anche il tempo delle elezioni, ma questo ce lo dica lei meglio, i giornalisti. No, ma io poi pensavo che si facesse un dibattito soprattutto sulla legge elettorale, perché esatto, sembra, cioè, non tanto perché siamo particolarmente appassionati alla legge elettorale, quanto perché un paese non può rimanere senza. Dove invece perché accenni concreti zero. E invece non so che loro hanno una proposta di portare il famoso consultellum della Camera al Senato, o addirittura la prima proposta del Mattarellum, che però è profondamente diversa dalla seconda. Esatto. E quindi attendiamo di capire che cosa voglia fare. Però mi sembra di capire, visto che la posizione di Forza Italia è si voti a fine legislatura, cioè si porti a naturale compimento la legislatura, è tutta acqua al vostro mulino, forse il fatto che ci siano, appunto, sia saltata l'ipotesi giugno, sia difficile l'ipotesi settembre. Voi siete contenti così? Sì, non è esattamente così. Noi diciamo che vogliamo fare una legge elettorale organica, chiara ed efficace, come ha detto il Presidente Mattarella, e omogenea fra Camera e Senato. In maniera tale non tanto perché ci piacciono le leggi complicate, che in questo caso la complicazione dovrebbe portare a una soluzione semplice, ma perché i cittadini capiscano che cosa vadano a votare. Cioè, andare a votare con una legge pasticciata dove non si capisce se è una legge proporzionale, una legge semi-maggioritaria, una legge con premietto o con premione. Insomma, io penso che si debba andare a votare con consapevolezza. Le faccio un esempio. Se tre sono le proposte che diamo agli elettori, un centro-sinistra o una sinistra, una ipotesi grillina e un'ipotesi centrodestra, è un po' diverso se questa proposta si inserisce su una legge elettorale che ha, oltre a avere un rapporto, diciamo, virtuoso col proporzionalismo, anche un piccolo premio maggioritario. È diverso se è solamente invece è solo proporzionale. Cioè, insomma, io penso che si debba dare al Paese la possibilità di capire con quale legge elettorale vada a votare, e si deve farlo anche abbastanza velocemente. Dopodiché la data del voto, questo dipende anche da altri fattori. Sì, sì, sì, chiaro. E sarà più naturale, diciamo, che sia più in là. Ma invece con Salvini come va? Cioè, nel senso, ma Berlusconi e Salvini si mollano, si lasciano? Perché ogni giorno... Chiave San Valentino oggi, la tua domanda. Esatto, chiave San Valentino, insomma. Questo rapporto d'amore è travagliato. Tra tutte le ipotesi di direttore, non so se quello del fidanzamento sia prevista. No, però quello dello sfidanzamento politico sembra ormai all'ordine del giorno, perché anche lì si parla... Anche lì. Gli aggettivi, i sostantivi, gli avverbi che ogni tanto vengono utilizzati sono tendenzialmente impropri. Ma io vorrei ripartire dai contenuti. Le faccio un esempio dell'immigrazione, il problema dell'immigrazione. Io ho sempre detto, parlo di me stesso, ho sempre detto che non devono partire dalle coste libiche, e ho sempre detto che la terza fase di EUNAVFOR MED, questa sigla, questo acronimo complicato, ma che fondamentalmente significa che le navi italiane che oggi sono al limite delle acque territoriali libiche possono entrare in aree libiche e impedire che barconi partano, e ci vuole una risoluzione del Consiglio di Sicurezza, ma ci vuole anche un accordo, o ci vuole anche un accordo col governo libico, questa cosa venga fatta. È sostanzialmente la stessa cosa che dice Salvini quando dice bisogna girare le prue dei barconi e farli ritornare in Libia. Quindi sull'immigrazione siamo tutti d'accordo che quest'anno, da marzo, quando il Mediterraneo sarà più calmo, non ci possiamo permettere altri 181.000 persone di migranti economici che vengono sulle nostre coste. Non ce lo possiamo permettere. Quindi è una roba che va bloccata. Entriamo nel merito, fra Berlusconi e Salvini, ad esempio su questo argomento, c'è a mio avviso sostanziale identità di vedute. Sì. Anche l'altro problema grosso è quello dell'Europa. Salvini dice basta euro, basta Europa. Noi diciamo questa Europa non ci piace più. Quando la Merkel ci dice ci sono Europa e due velocità, e io ho paura che nella seconda velocità, cioè quella più lenta, ovvero dell'Europa di serie B, metta il nostro paese, noi diciamo questa Europa non ci piace più. Dopodiché dobbiamo capire che cosa fare dell'euro. Ma oggi Salvini vuole uscire, vorrebbe uscire anche dall'Europa, vorrebbe fare un Italexit, su questo non siete molto... Diciamo che gli slogan in campagna elettorale o nel periodo pre-elettorale sono alle volte più forti dei ragionamenti, ma a mio avviso un ragionamento sull'Europa si può fare tranquillamente. Sì. Io so solo una cosa, che questa Europa, così come è combinata, fa gli interessi solo della Germania e non certamente del nostro paese. E anche di questo se ne può parlare, e a mio avviso si arriva al punto di sì. essendo questi due i due problemi maggiori, gli altri si appianano. Giustamente. Quindi io non vedo e non sono così negativo e così pessimista rispetto al fatto che un domani si possa trovare un accordo. Abbiamo forse anche un po' di tempo. Va bene, noi ve l'auguriamo. Intanto grazie al senatore Paolo Romani, grazie per essere stato con noi, Forza Italia, capogruppo al Senato. Io devo dire, apprezzo sempre la pacatezza ironica di Paolo Romani. Perché ironica, dice? Perché ha uno stile ironia. Se i politici usassero di più, in generale lo dico, non è mica uno spot per lui, o uno strumento di questo tipo, invece che il sarcasmo, il dileggio, il disprezzo, ne guadagnerebbero tutti. Intanto ci chiama Giovanni da Brescia, buongiorno Giovanni. Buongiorno amici miei, siete ecco. I miei compagni mattutini, io oggi festeggio 3 anni di disoccupazione, ho 55 anni e il mio motto è sempre nec descender, nec morari, però sentendo questa politica, sentendo questi signori, ti si abbassa casualmente, ieri, avendo tempo, io mi sono guardato il congresso del PD, mi sono cascate le braccia per non dire altro, vi assicuro che 3 anni mi sto lottando come non mai, e vi avevate quasi invitato alla vostra trasmissione qualche mese fa quando ci siamo sentiti, io non mollo mai, ma oltretutto essendo categoria infatti protesta, io mi ricordo la sua chiamata, essendo categoria protesta, caro Alessandro, stavo diventando una categoria in via di estinzione. Ricordo che lei ha fatto di tutto, ci ha raccontato Giovanni di aver tentato tutto il reinserimento nel mercato del lavoro. Io, mentre vi ascolto, mando via sempre i miei 3-4 curriculum con delle offerte che potrebbero andar bene. Ogni mattina vi do ogni ordine del giorno e tutto, ma veramente sentendo questi politici, sentendo Consultello Mattarello, e poi viene in mente che questi signori, quando c'era il governo tecnico di Monti, non dovevano fare altro che mettersi d'accordo, visto che il lavoro sporco lo faceva lui e la Fornero, per fare una legge elettorale sana e normale. Sono passati quanti anni, siamo ancora appunto da capo. Ma vedi, io come perché tanti, non come prendiamo, che è disoccupato da 3 anni, gli diamo una delega piena per qualche anno con questa ragionevolezza? Tanto per il momento, nec descender, nec morari, caro Giovanni, mai mollare. Ma ecco. A me anche solo il tono dell'ottimismo di questo mai mollare dopo 3 anni è una roba che mi rinfranca. Giovanni, in bocca al lupo, al prossimo aggiornamento tra qualche mese. No, però dai, piantiamola lì con questo finanziamento, con questo fidanzamento con la disoccupazione. Ti auguro un grande rapporto d'amore con un lavoro che ti soddisfi. Federico da Treviso, buongiorno. Salve ragazzi, buongiorno a voi. Dica. Dunque, Guccini, sono sempre stato un grande ammiratore dell'artista Guccini. Anche adesso non canta più, ma insomma. Come non canta conferenze... più? No, canta. No, non canta, fa le conferenze, presenta i suoi libri. Ma a parte questo, meno per quanto riguarda le sue idee politiche, tuttavia è sempre stato un grande artista. Mi spiace che un artista di tal calibro oggi invita quasi all'indifferenza, no studenti, no con gli studenti, no con la polizia. Gli anziani a Treviso direbbero quasi mi no va o combatter, sto a guardare e vediamo un po' che succede. Questo mi delude l'uomo l'artista Guccini mi ha deluso. Va bene, canti l'avvelenata. L'artista resta, magari le idee possono essere concluse. Cos'è che... locomotiva mettiamo mica. Capito. Uno vuole dire adesso l'inno però, all'anarchia, ma come gli regaliamo a sti confusi che vogliono occupare e spacciare lì nello spazio di una libreria? Dai, io vorrei dare una solidarietà personale, non so se anche tu Oscar, questa bibliotecaria 22enne che per aver denunciato lo spaccio, le siringhe, il sesso, i borseggi, i furti nella biblioteca, adesso è lei che viene minacciata. Questa è la logica di chi crede, capisci, di cavalcare le grandi idee della storia, quella a cui è dedicata questa canzone, e non si rende conto che non è neanche la cenere di quella roba lì. No, ci sono poi gli ideali, però poi ci sono le cose concrete, no? Che si vivono tutti i giorni. Quindi si può apprezzare Guccini, ma dire stare totalmente con questa bibliotecaria. Ma certo. Dalla sua parte. E dalla parte della polizia, come ha detto il sindaco. E dalla parte, sì, della polizia, dell'ordine, insomma, del fatto che non è una conquista di civiltà rompere la testa a chi ti dice che lo spazio non è tuo, ma è di tutti. E i tornelli li abbiamo messi proprio per consentire alla gente che viene qui di studiare di poterlo fare. Sì. Va bene, caro Oscar, ci fermiamo qui con la locomotiva di Guccini. Ogni giorno non sappiamo dove partiamo, non sappiamo dove finiamo. Questo però è bello di avere Peter, diciamo la verità, perché Peter in questo ci dà una traccia che non è una traccia mentale, molto di più. La traccia della musica è la storia, il futuro e l'identità. Guardate, Radio 24 non è solo i conduttori e tutti i ragazzi e ragazze con cui facciamo le trasmissioni, senza cui non potremmo far. Questi signori qua che stanno dall'altra parte interpretano quello che stai pensando, Alessandro, e gli danno forma musicale. A domani.